English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Anche questa sera parliamo di futuro e lo facciamo con un personaggio molto singolare che stiamo per incontrare. Si chiama Lee Edelkort, è una bella signora olandese ed è un guru delle tendenze. Ha fondato e dirige una società di consulenza internazionale e 4 riviste. È stata ospite qualche settimana fa del Capri Trend Watching Festival che ha seguito la nostra Maria Luisa Pezzali. Abbiamo rubato la sua intervista. Il simbolo che Lee Edelkort ha scelto per parlare del futuro è l'acqua. Sentiamo perché. I guess water has a very important metaphysical power, and I use this idea of water just to talk about the restarting of the energy, because when I think of the future, I think that suddenly the water starts to move, and the optimism of the growing waters and the rivers and, you know, the whole movement, which is much more building up and positive and dynamic, but also because it's the most important element, because we don't have enough water, so we have to be very careful. So it's also a message of ecology and durability, and we need to be much more careful. So it has a sort of double meaning. And then water is the mirror, you know, so we can be narcissists. Or water is maybe for the nymphs, and water has great qualities to tell stories, in fact. Non è la prima volta, Giulia, che incontriamo un accento olandese, quindi un inglese ottimo con un accento lieve, appunto, un accento olandese. Sì, con dei problemi particolari sulle doppie V, che c'è sempre questa difficoltà a pronunciarla water, perché naturalmente nelle lingue nordiche viene pronunciata come la V, però insomma Lee Edelkort, che tra l'altro è stata venuta anche qui per il Salone del Mobile nello scorso aprile, assomiglia a una delle signore dei pronipoti, ha i capelli bianchi con un grande ciuffo nero. È vero, una signora, un personaggio affascinante. E questa scelta dell'acqua, che alla quale addirittura lei, I guess, dice, quindi penso, credo, suppongo, dico, che ha un metaphysical quality, quindi appunto ha questo, per lei ha qualcosa di mistico, il fatto stesso di aver scelto l'acqua come immagine per una tendenza. E quale attinenza ha l'acqua proprio con il futuro? È secondo lei sempre il restarting of the energy. Se capisco che chi non l'ha mai sentita può sembrare una tipa un po' strana, però c'è una coerenza in quello che dice, e in generale quando presenta queste cose fa poi vedere magari dei pannelli, dei colori, quindi possiamo immaginarla mentre appunto fa vedere delle immagini dell'acqua, quindi the water that starts to move and the all movement, e tutto il movimento che it's building up, quindi si cresce piano piano, è positive ed è dynamic, quindi questa capacità di vedere una cosa molto semplice, l'acqua, appunto, tutte queste invece visioni immaginifiche. Senza dimenticare l'argomento dell'ecologia e quindi dello spreco dell'acqua stessa. Lei dice, ricordiamoci sempre, in questi giorni poi si è tanto parlato della privatizzazione dell'acqua in Italia, e ricordiamoci che we don't have enough, che non ne abbiamo abbastanza di acqua. Oddio, noi qui in Occidente siamo fortunati e in generale l'abbiamo quasi sempre, la sprechiamo, ma lei dice we have to be very careful, dobbiamo essere molto attenti, pieni di attenzione, careful, careless, viceversa sarebbe uno che se ne frega. E quindi c'è un message of ecology and of durability. Quindi abbiamo un double meaning, un doppio significato, e in un certo senso l'acqua a questo punto è come se ci permettesse di specchiarci. Qui le scappa un sorriso, perché in effetti Narciso usava l'acqua come specchio, no? Quindi water is the mirror, è per noi uno specchio, we can be narcissists, quindi possiamo essere narcisi, e poi ancora appunto l'evocazione, water has great qualities, quindi ha grandi qualità, to tell stories, dall'acqua, partendo dall'acqua, e ne è piena del resto la mitologia greca e non soltanto, e appunto da lì nascono tante storie. Molto affascinante questa immagine dell'acqua, ma torniamo al futuro, perché nel futuro, secondo Lee Edelkort, si parlerà sempre più della massa e non del singolo individuo, delle idee che arrivano dall'incontro delle menti. It comes from us people. I don't know if you can call that always the street. It's, you know, also happening in companies and in educational institutes and behind walls. And I think it's just all over the planet, everywhere happening at the same time. And it's going to have many ways of exploring this new energy, if you want. So it will not be just one domain. I think it will somehow cater to all the domains. It's going to be an overpowering, overwhelming change, massive change of society, because everybody still is counting on the individual society. Every marketing report, every vision of everybody, every governmental vision is about, you know, this unique, alone person. And now we see that it's completely wrong. It's not at all happening. Allora, non è detto che tutto questo arrivi dal basso? Questa era la domanda che aveva detto Maria Luisa Pezzali. Non possiamo dire che le nuove idee arrivino necessariamente dal basso, dalla strada, però certo arrivano dall'incontro delle menti. Sì, anche perché Liederkort è famosa soprattutto per così anticipare le tendenze nel tessile e quindi poi nella moda. Però lei in realtà qui cerca di farci capire che è qualcosa che sta succedendo, happening in companies, quindi non soltanto a volte si considera la strada, no? E si dice dalla strada vengono le nuove mode. Ecco, però invece questo, secondo lei, viene dalle persone, quindi tutti i posti dove ci sono tante persone, perciò it's happening in companies, behind walls, quindi letteralmente dietro ai muri, cioè vuol dire in posti che non possiamo vedere, ma sta succedendo là dove ci sono persone, sta succedendo questo, all over the planet. And it's happening at the same time. E secondo lei, che lo sente più che naturalmente poterlo spiegare razionalmente con delle formule, sta succedendo allo stesso tempo dappertutto, all over the planet. Tra l'altro tutto questo sarà overpowering, overwhelming, qualcosa di veramente molto forte. Sì, e qui uso un'espressione interessante, tutti noi ormai siamo abituati a sentire parlare di catering, ma to cater in realtà vuol dire preparare, quindi il catering è appunto quando qualcuno viene, ci prepara da mangiare, ci porta, e quindi to cater to cater something to somebody è preparare qualche cosa per qualcuno. Secondo lei questa rivoluzione will somehow cater to all domains, cioè servirà a tutti, sarà qualche cosa che verrà servito letteralmente a tutte le persone, non soltanto a chi si occupa di moda, piuttosto che di informatica, piuttosto che di marketing in una qualsiasi altra azienda. Appunto, marketing. Dice che soprattutto sulla visione del marketing ci dovrà essere un necessario cambiamento. Quanti discorsi abbiamo sentito fare, no? Sul potere dell'individuo, su che in realtà appunto l'individual society, che le società si fondano sul volere dell'individuo. Every marketing report, every vision of everybody. Lei dice siamo ancora fermi a questa visione della unique person, cioè la persona è concentrata su se stessa, e secondo lei è completely wrong and it's not at all happening, cioè non è questo che sta succedendo. Effettivamente basta guardare i social network, sono l'opposto di questo, non è una persona che si piazza lì a guardarsi l'ombelico, ma è una persona che cerca di aggregare intorno a sé o di aggregarsi a un network che già esiste. Completely wrong, completamente sbagliato. E c'è un'altra cosa completamente sbagliata, secondo Liederkort, perché molti trend watcher parlano dell'arrivo, dopo la crisi, di un'era della nuova frugalità, ma lei non ci crede. I don't believe in a new frugality. I just see that this crisis is not like any other crisis, where the consumer basically, since it was a financial crisis to begin with, doesn't feel guilty like normally in a crisis. So I don't predict or preview a back to basics. I preview a sort of calming of consumption. But there is nevertheless also joy and erotism and metallics and shine, and so it's very unusual. Normally it's never like this. Normally it's basic and matte. And this time around I believe it's going to be very different and more fun. Eccola qua, mi piace, perché la conclusione è che quello che lei vede è more fun, ci sarà più divertimento. Ma torniamo da capo, lei dice I don't believe in a new frugality. Sì, in inglese appunto to believe in, quindi lei non crede in questo ritorno della frugalità, cioè che diventeremo tutti più modesti, sceglieremo cose meno care, eccetera. Perché? Perché è vero che c'è stata la crisi, questo non lo nega assolutamente, but this crisis is like no other crisis, cioè una crisi di naturalmente di tipo economico, ma diversa da quelle precedenti. Perché? Perché it was a financial crisis to begin with, cioè è stata una crisi che è iniziata, la scintilla è stata dalla finanza, dalle bolle finanziarie, non dall'economia reale. c'è un comportamento che è diverso da quello che accade normalmente quando ci si trova in mezzo a una crisi, e questo segna il nostro comportamento e la nostra reazione futura. Il famoso senso di colpa, quindi, che abbiamo sempre quando succede qualcosa. Forse lei dice appunto quando una crisi è prettamente economica ci sentiamo un po' tutti colpevoli, ma non in questo caso, perché we don't feel guilty, the consumers don't feel guilty, perché appunto è stata una financial crisis. Quindi lei predicts and previews, quindi predice e prevede un ritorno alle cose concrete di qualità, quindi back to basics, ma non un calming of consumption, quindi un calmieramento dei consumi, ma perché eravamo tutti un po' troppo forse così drogati di consumi, per l'appunto, ma non una nuova frugalità, appunto. Anzi, cosa prevede? Qualcosa di molto concreto, perché appunto ci dicevi, lei è un'esperta di tendenze soprattutto per quanto riguarda i tessuti e anche qui ne parla. E lei appunto vede il tema è quello della gioia, quindi joy, e dell'erotismo, che quindi vuol dire un'esplosione in generale di energia, ma per esempio concretamente vuol dire molto metallics, molto shine, cioè tutti quei tessuti, quegli abiti che saranno metallici, borchiati, luccicanti, very unusual, cioè naturalmente una reazione diversa, no? In generale alle crisi si reagisce con un pochino di depressione, but this time around, ma questa volta it's gonna be more fun, sarà più divertente. Ma io ci spero proprio, anche se devo dire mi spaventa un po' l'idea di dover andare in giro con abiti un po' appesantiti dal metallo, non lo so, vedremo se avrà ragione Liedelcourt. Il nostro tempo radiofonico finisce qui anche per questo sabato sera. Io ringrazio intanto Maria Luisa Pezzali che ci ha regalato questa intervista a Liedelcourt, poi Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro appuntamento in edicola con il mensile English 24 da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.